Radio 24 Reportage. L'Emilia che riparte. Voci di viaggio dal dopo terremoto. Di Laura Bettini. Carpi è spazzata da un vento teso. Il cielo terso striato di nuvole in corsa. Molto diverso da quello carico di nuvole di febbraio, quando venni qui la prima volta, a 9 mesi dal terremoto. Tu puoi respirare l'alba, puoi guardare avanti, scrivere orizzonti nuovi. Ora siamo a 12 mesi e in città ci sono i festeggiamenti per il patrono, San Bernardino da Siena, il 20 maggio. L'anno scorso furono bruscamente interrotti per il terremoto. La prima scossa non aveva avuto conseguenze devastanti per Carpi e così autorità e associazioni si erano adoperati per portare i soccorsi là dove servivano, per poi doverli richiamare dopo la scossa del 29, che colpì duro anche qui. Mi chiedo il perché, di fronte a così tante cose a cui dire addio, mi sento più forte di prima. Oggi Piazza dei Martiri, la piazza centrale, porta ancora le ferite del terremoto, ma le riconosce solo chissà cos'è accaduto. Per un turista inconsapevole potrebbe essere solo una piazza in via di restyling. Quello stesso turista, però, vedrebbe oggi, tra musica e giochi di piazza, centinaia di foto del disastro di un anno fa e scoprirebbe presto la verità. L'associazione Antenna 2000 di Carpi, dal 1999, è attiva nella protezione civile, ma finora della sua stessa città non aveva mai dovuto occuparsi, ricorda la signora Luisa. Noi, quando è successo il terremoto qua, abbiamo gestito, la nostra associazione ha gestito Santa Croce, le scuole che ci sono a Santa Croce, e al motocross, dove c'era la tensiostruttura messa a disposizione da tondelli. Allora la nostra associazione si è presa l'onere di gestire queste due strutture. Con i nostri ragazzi facevamo 24 ore su 24 praticamente. La vocazione alla protezione civile l'hanno scoperta col terremoto anche gli ex paracadutisti della Folgore, riuniti nella sezione di Carpi dell'AMPDI, l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Stefano Turci è il vicepresidente della sezione. Recupero di beni in case inagibili, cooperando con i vigili del fuoco, la protezione civile. Poi abbiamo presidiato la tendopoli del gruppo di protezione civile della Lucania, il campo Basilicata. Vedo distribuzione di generi alimentari. Generi alimentari qua, per esempio, abbiamo portato un frigo a Cavezzo. Abbiamo fatto la mappatura dei campi spontanei che c'erano a Rovereto, Sant'Antonio Mercadello. Ora tutti hanno fatto il corso di protezione civile e la loro sezione si metterà a disposizione per eventuali future emergenze. Lo spettacolo dei paracadutisti che si gettano da un aeroplano e centrano Piazza dei Martiri richiama una folla che il presidente del comitato della festa del patrono, Adamo Neri, nemmeno si aspettava. E la calca aumenta con gli sbandieratori di Fornovo. Riusciamo a ritagliarci un minuto di relativa tranquillità in uno degli stand della piazza. Le pare che questa esperienza abbia portato più vicini i cittadini, cioè che abbiano adesso un senso di appartenenza maggiore rispetto all'anno scorso? Io ho visto che queste difficoltà hanno evidenziato tanta solidarietà, tanti atti di eroismo, tanta partecipazione e tanto egoismo. Quindi diciamo da un estremo all'altro, però se dovessi mettere su una bilancia il positivo è migliore, cioè ce n'era di più. Lungo la strada per Mirandola i danni del sisma sono più evidenti ancora. La città da poco ha riaperto il suo centro storico e tra oggi e domani festeggerà in piazza la lenta rinascita. Stasera però la mia meta è Finale Emilia, l'epicentro del terremoto del 20 maggio. Il palco del complesso che suona Finale Sei Mia è rivestito di striscioni di protesta. L'esibizione è buona, ma assistono in pochi. È tutto il giorno che i finalesi commemorano il terremoto e forse ormai sono stanchi. In attesa della fiaccolata di mezzanotte, Jessica e Ivan mi accompagnano in un tour dei monumenti superstiti e non della città. Ivan Gallini è stato uno dei volontari che con santa pazienza, sotto il sole cocente dell'estate, hanno raccolto e minuziosamente catalogato i frammenti della torre di Finale Emilia, per ricostruirla, ovviamente. A volte eravamo anche una quarantina di persone. E tutti i giorni per 2-3 mesi circa, sotto un sole cocente, a dividere praticamente tutte queste pietre che erano cadute, cercare di recuperare il più materiale possibile, tenendolo diviso per tipologia, per materiali trovati. Con questo tipo di lavoro che abbiamo fatto è stata aperta da parte dei beni culturali un protocollo, è stato creato un protocollo basato giustamente per la catalogazione delle pietre di edifici storici in caso di calamità quali terremoto, alluvioni e via dicendo, proprio basandosi sul lavoro che è stato fatto fino all'Emilia. La mattina dopo, a Mirandola si festeggia la sigla dell'intesa tra la provincia di Modena ed ENI, che contribuirà con 2 milioni di euro alla ristrutturazione dell'Istituto Tecnico Superiore Luosi. Ora il preside, Giorgio Siena, può sognare davvero una scuola nuova, in tutti i sensi. Pensiamo a una scuola non più costruita sulla trasmissione di conoscenze, ma sulla formazione di competenze. Per una scuola di questo tipo servono delle aule disciplinari, tematiche, servono delle aule con le nuove tecnologie, aule 2.0 come si dice ora, servono degli spazi per gli studenti nei quali gli studenti organizzino anche in modo autonomo il loro apprendimento. Quindi diciamo che entra nella scuola di Mirandola il modello di innovazione di cui si parlava prima, che è tanto tipico di queste zone. Penso di sì, quello che abbiamo avuto è talmente tanto che noi dobbiamo restituire lo sforzo di fare una scuola che sia modello per altre scuole. Per il presidente dell'ENI, Giuseppe Recchi, che visse qui in gioventù, è anche l'occasione per una riflessione sulla nostra scuola italiana. Abbiamo un capitale umano che vive in un territorio che li bombarda di stimoli, perché io solo penso a quello che vediamo, ma proprio alla cultura creativa del nostro paese, che molti paesi non hanno e non è una differenza banale. Dobbiamo costruire però quella palestra della mente che è la scuola, che sia all'altezza di questa competizione. Io ho la sensazione che da molti anni anche nella scuola, rinunciando alla competitività, abbiamo costruito forse una scuola che non è così al top. C'è anche il presidente della provincia di Modena, Sabattini, convinto che dalla disgrazia possa nascere una opportunità per l'Emilia. Io credo che il bicchiere sia mezzo pieno. È chiaro che i tempi di ricostruzione saranno lunghi. Unito un'alta consapevolezza che questo è l'unico territorio in Italia, in questa crisi drammatica che il paese sta vivendo, che nonostante la tragedia, la ferita profonda, avrà a disposizione circa 10 miliardi di euro. Cioè questo territorio potrà vincere meglio di altri la sfida della competizione del futuro. Dopo la diretta con la radio, per me è tempo di partire al volo per Ferrara. C'è là la riunione straordinaria dei consigli provinciale e comunale. Ospiti anche i comuni dell'area, alla presenza di Laura Boldrini, presidente della Camera, e Vasco Errani, presidente della Regione Emilia-Romagna, commissario straordinario per il terremoto. Lungo la strada il cielo si oscura e piove a dirotto. Arrivo giusto in tempo al Castello Estense, bellissimo e maestoso. Un minuto dopo il Vescovo, un minuto prima di Errani. Finirà quando avremo messo l'ultima pietra nel bene culturale, nel bene pubblico, nella chiesa, quando i nostri centri storici saranno meglio di prima del terremoto. Il capannello di microfoni all'improvviso si volatilizza, ma si riforma qualche metro più in là. Dietro, lo riconoscerò dalla voce perché non riesco a vederlo, c'è il capo dipartimento della protezione civile, Franco Gabrielli. Le cose, ripeto, da fare sono tantissime, ma bisogna anche riconoscere lo sforzo che è stato fatto fino adesso. Tra sirene spiegate arriva l'auto che accompagna Laura Boldrini, ma lei non si concede ai microfoni. È tardi e bisogna entrare. La pioggia è battente, ci costringe tutti nella sala dei comuni, meravigliosa anche sotto i cerotti che tengono insieme gli affreschi crepati. La sala è piena all'inverosimile. Uno dopo l'altro, amministratori e rappresentanti delle parti sociali prendono la parola. Errani, in un raro momento di brio pubblico, si vanterà che il più consistente fondo europeo di solidarietà sia stato attivato proprio per questo terremoto e proprio grazie alla serietà dimostrata da questi terremotati e dalla loro amministrazione. La Boldrini ascolterà tutti. Una ricostruzione esemplare, dirà, impegnandosi per il futuro. farò di tutto, faremo di tutto perché il Parlamento e il Governo rimangano vigili e attivi, che non si dimentichino di questi comuni e degli impegni assunti per completare la ricostruzione. Tremano le case, trema tutto il letto, tremano i pensieri e la vita al suo cospetto. Lasciata Ferrara sotto l'acqua e lasciata l'Emilia, torna a splendere forte il sole. Mi pare un segnale chiaro che nonostante tutto, quello del cratere del terremoto sia ancora un mondo a parte. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.